6B. Ascolta e rispondi. Che cosa cerchi? Cerco la mia borsa. Che cosa metti? Metto la mia sciarpa. Che cosa disegni? Disegno la mia casa. Che cosa butti? Butto la mia tessera scaduta. Che cosa fotografate? Fotografiamo le nostre stanze. Che cosa fotocopiate? Fotocopiamo le nostre carte d'identità. Che cosa preparate? Prepariamo le nostre valigie. Che cosa vendete? Vendiamo le nostre proprietà.